La borsa crolla, lo spread sale. Non stare male, Mauro e Deborah ci faranno sognare. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Quindi abbiamo scoperto da adesso che pittarsi le unghie, pittarsi i capelli, tirarsi i peli sulle gambe è una cosa necessaria. Signor Augusto, tu potevo capire che io sono a spiaggia e non è che potevo arrivare a spiaggia King Kong, no? E si doveva chiaramente depilare. Ma se siamo a febbraio, a marzo, è vero che non fa freddo, ma immagino che nessuno ha necessità di andare in spiaggia adesso. E quindi non la poteva nessuno, non ci poteva nessuno si esce King Kong da sotto la cavazzina, no? E quindi potremmo mantenere un po'. Ma evidentemente la penso strano così. Buongiorno, buongiorno, abbiamo voluto un po' sdrammatizzare, cara Debora. Ho le lacrime agli occhi perché Antonio Tutolo, sindaco di Lucera, un paese in provincia di Foggia, da qualche giorno è il nostro nuovo idolo. Questa, c'è da dire, è un piccolo estratto di questa sua diretta Facebook che hanno mandato in onda gli amici di Propaganda venerdì scorso. E diciamo che questo sindaco così ha voluto dare delle informazioni e dei consigli in maniera non tanto diplomatica ai suoi cittadini, perché evidentemente non rispettavano tanto gli ultimi, sì. Le ultime indicazioni di legge. Ma io la vedo per il contenimento, eh? No, ma io la vedo anche un po' come una sorta di circolare applicativa dei vari decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sai, quelli dove si dice evitate gli spostamenti non necessari, spostatevi solo per motivi di lavoro o di salute, per cose proprio sì. Inderogabili. Ecco, lui ha voluto dare una circolare applicativa anche con dei passaggi in lingua locale, che è appunto esatto, quello dove no. Lui dice anche se siete, diciamo, pelosi come King Kong, tanto non è stagione di andare in spiaggia. Così diceva, io essendo padano, fatico un po' a seguirlo. Credo che si rivolgesse soprattutto alle gentili signore di questo paese che ovviamente vogliono stare in ordine anche in casa e quindi pretendevano di andarsi a fare la ceretta. Peraltro non è il primo sindaco che lancia questi messaggi alla popolazione, ce ne sono molti che si sono indispettiti in questo periodo perché molti cittadini ancora non hanno ben compreso la portata delle ultime disposizioni e molti continuano a passeggiare, c'è tutta la storia del cane che viene portato a fare i suoi bisogni 200 volte al giorno e allora forse stamattina Mauro, è bene rifare l'ABC di tutte le ultime disposizioni per far capire non tanto in che cosa consistano, ma bisognerà far capire ai nostri ascoltatori che cosa implica il non rispettarle, perché le implicazioni forse non sono state ben comprese. E infatti, cara Debora, io ho scomodato, proprio mi sono permesso e ti sottoporrò il contributo di un esperto assolutamente di valore mondiale, un esperto già noto peraltro due di denari, anche se su altri temi, ma essendo lui avvocato ci preciserà quali sono le sanzioni alle quali si va incontro se ci si sposta e si viene pizzicati per motivi futili, per motivi non adeguati. Ripeto, ci si può spostare per andare al lavoro e bisogna anche autodichiararlo e dimostrarlo in qualche modo, ci si può spostare per fare la spesa perché uno ha bisogno, portare giù, appunto come dicevi tu, più e più volte il cane che non ha alcun bisogno di uscire, può essere considerato un motivo futile. L'invito è sempre certo. Quello, stiamo a casa il più possibile o comunque limitiamo gli spostamenti, anche in Foggiano. Esatto. Anche allora, a tal proposito, a proposito di spostamenti, naturalmente per chi ha assolutamente necessità di farli perché deve andare ad assistere magari un anziano, a portare la spesa alle mamme, ai papà che abitano da un'altra parte e chiaramente per loro l'invito è più stringente a non spostarsi, quindi la spesa la portiamo noi, questo è uno spostamento giustificato, non dobbiamo esagerare. Ma a proposito di spostamenti, in realtà molti ascoltatori in questi giorni, leggendo anche tutte le norme che si sono susseguite in queste ultime settimane, hanno compreso che ci sono delle novità relativamente proprio all'utilizzo dell'auto. Allora, per esempio, per chi ha in scadenza l'RC auto in questi giorni, si era detto in uno dei provvedimenti iniziali che per qualcuno questo pagamento poteva anche essere sospeso. In realtà è una questione che riguarda soprattutto ed esplicitamente gli abitanti dell'iniziale zona rossa, quella dell'Odigiano, poi per tutto il resto in realtà non è così, chiariremo questi passaggi. Se dobbiamo fare la revisione, il tagliando dell'auto in questo periodo, che cosa facciamo? Se dobbiamo rinnovare la patente in questo periodo, che cosa facciamo, ci sono dei rinvii anche per tutto questo. E anch'io, caro Mauro, per tutte queste tematiche ti ho scomodato un altro esperto di valore planetario, direi. Certo, non possiamo scendere al di sotto di questo standard, neanche con il coronavirus. Esatto, e sarà un presidente di una grande associazione dei consumatori che è particolarmente preparata proprio su queste tematiche. Allora, io ricordo che potete sempre contattarci per intervenire in diretta utilizzando l'abituale 800 24 00 24, ovvero potete anche scriverci messaggi SMS o messaggi via WhatsApp al 349 238 6666. Abbiamo anche una casella di posta elettronica, se vi piace, 2 di denari, è scritto tutto con le lettere, 2 di denari @radio24.it. Tutto ciò premesso, cara Debora, vogliamo dare comunque qualche notiziola in breve? Eh sì, perché in questo periodo ce ne sono tante, per cui pronti, via! Andiamo! Drin drin, edicola risparmio. Mi piace questo attacco che Laura Faggin ha individuato, oggi sai ci aiuta lei, c'è Paolo Corleone in regia e Laura Faggin qui presente proprio in sede, rigorosamente con tutte le protezioni necessarie, guanti, mascherina, certo, eccetera eccetera, quindi lavoriamo sempre con il massimo della sicurezza possibile. Ecco, mi piace, questo è un po' energico, allora cominciamo con delle cose energiche. Da dove vuoi cominciare, Debora? Allora, comincerei raccontando ai nostri ascoltatori di questa bella iniziativa che è stata intrapresa da queste aziende, ve le cito, si chiamano Altido, Clean B&B, All These, Italian Way, Sweet Guest e Wonderful Italy. Sono 6 delle principali aziende italiane di gestione di appartamenti per affitti a breve termine. Che cosa hanno fatto? Hanno stipulato un accordo per supportare lo sforzo del personale medico ed infermieristico impegnato a contrastare in questo periodo la diffusione di questa terribile epidemia e contribuire così con la propria attività di gestori professionali a questo momento molto difficile che il nostro paese sta vivendo. Allora, cosa hanno fatto nello specifico? Questa società hanno messo a disposizione di medici ed infermieri direttamente coinvolti nell'attività ospedaliera gli appartamenti che gestiscono in tante città italiane: Milano, Padova, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Siracusa, Catania e Bari, oltre ad altre città su tutto il territorio italiano. Quindi le aziende sanitarie o direttamente i medici e gli infermieri che hanno bisogno possono contattare le società utilizzando questo indirizzo mail stateacasanostra@gmail.com e riceveranno dalle società le proposte di disponibilità di immobili fra le quali potranno scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze. Personale medico che magari va a lavorare in queste grandi città non può spostarsi ripetutamente e quindi chiaramente ha bisogno anche di punti d'appoggio un po' stabili nelle aree appunto dove lavorano. Mauro. Faccio una preghiera a Marco Lombardo, che naturalmente non ci ha abbandonato, ci segue sempre, è sempre il nostro badante ufficiale in remoto, se a distanza può rilanciare anche su Twitter dal nostro account, insomma da 2 di denari, questo stateacasanostra@gmail.com dedicato appunto al personale medico e infermieristico che è impegnato in prima linea per contrastare il coronavirus. Ti avviso, Debora, che qui stanno già piovendo tutte le richieste di indicazioni e anche istruzioni applicative per mi sposto o non mi sposto, quindi avremo da fare tra un po'. Andiamo avanti invece a proposito di spostamenti, consegne. Allora, Amazon ci fa sapere, forse dovevi dirlo tu Amazon, perché poi ci dicono che gli facciamo pubblicità. Sì. Allora, Amazon ci fa sapere che gli addetti alle consegne sono tenuti a mantenere una distanza precauzionale di almeno 1 metro dal cliente. Inoltre ci dice: una volta raggiunto l'indirizzo di consegna, l'autista dovrà suonare o bussare alla porta, lasciare il pacco a terra arretrando di almeno 1 metro mentre attende che il cliente ritiri. Per eliminare i contatti in assoluto non richiedono assolutamente la firma del cliente al momento della ricezione. Questo ha spiegato Amazon. Debora. Allora, sì, oltre al pagamento dell'RC Auto, sul quale andremo tra poco con il nostro approfondimento, in questi giorni tante notizie più o meno veritiere si sono rincorse anche sul tema del pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti. Ci sono state appunto una serie di notizie ed annunci su possibili stop al pagamento delle fatture per tutto il territorio nazionale. Sono delle indiscrezioni che vanno in realtà ridimensionate e quindi il Sole 24 Ore lo segnala segnalo perché è un pezzo di grande utilità, di grande servizio, ha messo in fila le poche certezze in modo da poter sgombrare campo appunto dalle tante voci non confermate su questi punti. Le bollette saranno sospese su tutto il territorio nazionale? No. Lo stop dei pagamenti scatta per alcune categorie? Sì. La sospensione vale anche se non esiste più quella zona rossa, quella iniziale? Vero. Lo stop per questi 11 comuni vale per tutto il 2020? No. È sospeso anche il canone RAI insieme alle bollette elettriche? Sì, se non paghi la bolletta, questo è applicato lì dentro, è chiaro che non va pagato neanche questo. L'autorità per l'energia ha bloccato i distacchi per morosità? Vero, ce l'ha detto e spiegato anche la settimana scorsa il presidente di ARERA Besseghini. Ci sono venditori che hanno sospeso bollette dei propri utenti di loro iniziativa? Vero, io vorrei segnalare appunto questo bel pezzo di Celestina Dominelli sul Sole 24 Ore e naturalmente condivideremo anche il link sui nostri social per far leggere a tutti gli ascoltatori che sono interessati al tema. Ma quindi no. Sul Facebook e sul Twitter naturalmente come primi adempimenti. Oh, c'è anche un applicativo, a proposito di tecnologie, c'è anche un applicativo per la gestione delle file, sai Deborah? Davvero? Sì, una YouFirst si chiama, è una piattaforma disponibile con web e via app, è nata per semplificare l'accesso ai servizi in città, mette a disposizione dell'Associazione Nazionale degli ufficiali di stato civile di Anagrafe un meccanismo per sostanzialmente poter gestire ordinatamente gli accessi delle persone negli uffici pubblici, quelli che ancora devono mantenere un presidio sul territorio. Siccome anche in quella occasione è necessario non assembrarsi, non so se questo verbo esiste, peraltro l'ho coniato così sotto l'effetto di questa quarantena che siamo sottoposti. Comunque dobbiamo evitare gli assembramenti anche negli uffici pubblici, c'è una applicazione che ce lo consente. Allora, un'ultima notizia sempre di servizio che diamo riguarda l'attività di una grande banca. Come sapete le ultime norme hanno dato la possibilità a tutte le persone che ne hanno bisogno di sospendere momentaneamente i mutui appunto e finanziamenti. Allora, Banca Intesa San Paolo ha attivato per la propria clientela la sospensione a distanza di finanziamenti, mutui e prestiti, per cui tutte le persone che avranno bisogno prossimamente non ci sarà necessariamente bisogno che si rechino in filiale per far partire l'istruttoria e questa pratica, quindi con un pochino di pazienza la banca darà assistenza a tutti in remoto. C'è anche la possibilità appunto di chiamare il numero verde della banca stessa, andate a cercarvi tutte appunto le informazioni, chiamate la vostra filiale, il vostro direttore di fiducia, ma con calma, la banca si impegna a fare tutto a distanza. Io credo che questa iniziativa arriverà progressivamente anche da tutti gli altri istituti di credito del territorio, per adesso appunto si attiva Banca Intesa San Paolo. Mauro. Tutto ciò premesso, andiamo con il dillo a due di denari perché poi incombono i chiarimenti. Dillo a due di denari. Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di un'informazione che solo voi potete darmi. Come ci si regola nel caso di un contratto d'affitto che è scaduto e l'inquilina doveva andare via il 20 marzo, però adesso mi ha detto che non può più andare via perché deve stare a casa e non può fare il trasloco. Io però nel frattempo avevo già riaffittato l'immobile, quindi la nuova inquilina vorrebbe invece comunque entrare. E come mi devo regolare? L'inquilina che non va via deve comunque continuare a pagare? Grazie. Caro Mauro, questo è un grande problema nel quale in questo momento si trovano per esempio anche tutti quei proprietari di case in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città, che hanno affittato le loro case agli studenti universitari che da settimane non abitano in queste case, quindi molti già hanno cominciato ad affrettarsi a chiedere di ridiscutere il contratto d'affitto, però bisogna capire se se n'è nel diritto di poterlo fare o meno, perché molti dicono come vengono sospesi i mutui, perché non vengono anche sospesi i canoni d'affitto in queste circostanze. Io ho fatto preparare Fabrizio Premuti su questo tema. Ah, Fabrizio Premuti, che andando in rigoroso ordine alfabetico per cognome è il primo dei nostri due ospiti di assoluto valore. Buongiorno, bentornato a Due di Donari. Grazie, buongiorno a voi, bentrovati. Buongiorno a tutti i radioascoltatori anche. E buongiorno anche all'avvocato Valerio Vallefuoco, esperto del Sole 24 Ore, anche lui in collegamento con noi per decifrare, ci si può spostare, che rischio, cosa rischio se mi prendono per non mi sto spostando per un motivo valido e giustificabile. Buongiorno avvocato Vallefuoco. Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno Mauro, buongiorno Deborah. Deborah, da dove vuoi partire? Vorremmo restare un secondo con Fabrizio Premuti sugli affitti? Esatto, perché... sulla questione degli affitti, perché in realtà, come dire, questa è un'obbligazione che va rispettata. Se tu vuoi sospendere la rata del mutuo momentaneamente, hai il diritto di farlo, lo dice la norma, perché lì comunque c'è anche un impegno diverso dietro a questo rapporto con la banca, c'è l'impegno dell'acquisto di un immobile, di una casa. Per l'affitto, a quanto pare, potrebbe funzionare in maniera diversa. Fabrizio Premuti, che cosa ci suggerisce l'Associazione dei Consumatori? Ricordiamo che Fabrizio Premuti è presidente di Consumer, l'Associazione dei Consumatori con la K. Premuti. Eccoci, allora lì il problema è molto semplice, perché se non interviene il governo con una disposizione, diciamo, obbligatoria, l'affitto va pagato e quella persona che rimane all'interno della casa ha il diritto di rimanere all'interno proprio per rispettare quelle che sono le obbligazioni date dai decreti ministeriali. Il governo ci ha detto che dobbiamo stare in casa, quella persona rimane in casa, ma è comunque obbligata a pagare l'affitto, quindi l'affitto dovrà continuarlo a pagare. L'altra persona che deve entrare a sua volta dovrà rimanere in casa, perché io non credo che in un momento come questo il trasloco sia la prima preoccupazione. La prima preoccupazione di buon senso è quella sanitaria, quella di dover stare al sicuro. E quindi credo che anche l'altra persona dove sta rimarrà e poi aspetterà momenti migliori per il trasloco. E allora abbiamo dato una indicazione che è l'indicazione che è desumibile, come si dice, non solo dalle norme ma anche dagli usi. Poi naturalmente ci sono n declinazioni, perché siccome ci muoviamo nel privato, ma chiedo conferma a Fabrizio Premuti, ci muoviamo nel privato, poi uno può anche, non so, in ragione veramente di grande comprensione del momento, dire vabbè, questo mese l'affitto me lo darai dopo, aspetto. Questo può essere poi l'oggetto di una trattativa tra privati, la riduzione dell'affitto. Prima avete fatto l'esempio delle stanze affittate agli studenti. È vero che gli studenti non stanno lì, ma se non hanno dato disdetta del loro contratto, l'affitto continua a correre, c'è poco da fare, va pagato. È un diritto del proprietario pretenderlo, a meno che poi non subentri quella che è una trattativa tra privati in cui si dice va bene, lo possiamo ridurre, lo possiamo sospendere, lo possiamo posticipare. Ma se non abbiamo un'indicazione del governo che sospende gli affitti e in qualche maniera tiene conto anche di chi questi affitti non li percepisce, perché se da una parte c'è il pagamento a vuoto, e dall'altra se non c'è quell'entrata, magari mettiamo in difficoltà una famiglia, perché su quell'entrata fa conto per poter sopravvivere. Allora, chiarito, diciamo, per quello che possiamo, questo argomento, verrei alla questione degli spostamenti, perché cara Deborah, qui sì, fioccano le richieste. Allora, anche qualcuno, sulle mail, sì. Sì, qualcuno dice ma la legge non ci dice di restare in casa. Beh, oddio, a me è sembrato di capire il contrario anche dalle campagne di comunicazione, però per carità, c'è libertà di opinione. Io chiedo all'avvocato Vallefuoco, allora, questo non è materia, voglio dirlo subito, che riguarda il decreto legge varato, approvato ieri dal governo. Questa è materia che è già disciplinata dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dal 1 all'11 di marzo e che via via hanno stabilito appunto questo invito, per dir così, a restare in casa. Un invito che però comprende anche delle sanzioni pesanti. Vallefuoco. Allora, intanto, magari, visto che si parla spesso di dati, al 15 marzo l'ufficio stampa del Ministero dell'Interno dice che sono state controllate su questo argomento 665.000 persone, ne sono state denunciate ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, che poi di cui poi parleremo ovviamente, 26.954, e poi sono state denunciate ai sensi del 495 e 496, ossia falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sull'identità o qualità personale proprio altrui, 662 persone. Sono stati controllati 317.000 esercizi commerciali e sono stati denunciati 1.102 esercizi commerciali. Quindi, diciamo, la prima questione da chiarire, attenzione, perché la violazione delle norme igienico-sanitarie dettate dall'urgenza di questo periodo è una questione che poi è penalmente sanzionata. Tutti avranno sentito e avranno parlato dell'argomento all'articolo 650, e l'articolo 650, che è richiamato espressamente anche nelle decreti presidenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, parla effettivamente di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. L'articolo 650 dice: chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, sicurezza o d'ordine pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a euro 206. Esatto, quindi avvocato. C'è già un richiamo espresso. Esatto, avvocato, perché questo qui però induce molti di noi in errore, cioè dice: vabbè, ma allora io pago sostanzialmente una multa e pazienza se mi prendono. Ma non è così. No, assolutamente non è così, perché io ho anche sentito ogni tanto in queste chat dei consigli: attenzione, ma tanto è una multa. No, non è così, questo è un reato, è un reato contravvenzionale, per cui non c'è bisogno del dolo, ma quindi anche solo della colpa. È un reato che comporta la pena alternativa tra dell'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda fino a 206. Poi evidentemente tutte queste denunce scaturiranno dei procedimenti penali. È vero che si può fare opposizione a queste, perché poi successivamente il procedimento è che il pubblico ministero possa emettere un decreto penale di condanna, e poi quindi potrebbe esserci anche solo l'ammenda che, se pagata, evidentemente poi dopo vuol dire fare acquiescenza, quindi accettare la condanna, e quindi si ha il certificato penale con la condanna. Quindi se invece si fa oblazione, beh, in quel caso si apre proprio un vero e proprio procedimento. Però il fatto che si fa istanza d'oblazione, un conto è chiedere, un conto è avere ragione, perché poi il pubblico ministero, ma soprattutto il giudice che dovrà decidere su questa oblazione, dovrà fare alcune valutazioni, perché la valutazione è discrezionale. Dovrà per esempio valutare la gravità del fatto, il fatto se è stato reiterato. Quindi, insomma, io tutta questa automaticità, e quindi direi di stare molto, diciamo, cauti nel rispetto di queste norme che ci dicono di evitare gli spostamenti, e quindi il concetto di stare a casa è un concetto evidentemente chiaro, che deve anche essere considerata alla luce di un'eventuale commissione di un reato. Esatto, evitare gli spostamenti è la formula che viene utilizzata dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ora, assolutamente, come sì. Possiamo immaginare facilmente, sai Deborah, qua fioccano anche oggi ovviamente le più varie interpretazioni, sì. In realtà hanno detto che posso andare a fare la corsetta al parco, sì, posso portare giù il cane. Allora, evitare gli spostamenti, avvocato alle fuoco, vuol dire evitare gli spostamenti, quindi limitare gli spostamenti. Questo non vuol dire, perché anche le stesse diciamo, anche la stessa normativa, parlando di evitare, non di vieto degli spostamenti, evidentemente già di per sé chiarisce che ci possono essere delle eccezioni limitate alla necessità. Io ad esempio, certo, ho raccolto una circolare che ha emanato il Ministero dell'Interno, che insomma da questo punto di vista è stata abbastanza chiara. In un passaggio dice: per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti siano consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Questo, diciamo, dice la circolare del gabinetto del Ministro dell'Interno del 12 marzo 2020. Poi ci sono per esempio delle circolari attuative, perché poi tutte queste norme che sono generali, poi evidentemente bisogna interpretarle, e su questo magari do il consiglio ai telespettatori, ai radioascoltatori, di andare a verificare sul sito del Ministero dell'Interno, interno.gov, dove ci sono delle FAQ che diciamo delle, quindi delle domande frequenti a cui io poi posso chiaramente rivolgermi per capire che cosa devo fare. Per esempio la procura di Genova, visto che aumentavano a dismisura le denunce, ha fatto una circolare nel 16 marzo che appunto è consentito all'interno della propria zona di residenza uscire dalla propria abitazione per soddisfare elementari esigenze di vita legate all'attività motoria, all'acquisto di beni in vendita presso esercizi commerciali quali sia autorizzata l'apertura. E quindi diciamo anche qui fa riferimento al concetto di evitare, quindi noi dobbiamo limitarci, autolimitarci ed evitare. È che mi sembra tutto chiaro fin qui, adesso mettiamo anche su Twitter e sui vari account e sui social l'indicazione del Ministero dell'Interno che ho rintracciato su interno.gov.it, mentre Deborah invece ci aggiornerà sulle borse. Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11, alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano e canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza e l'orgoglio di essere italiani per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia, tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene. Due di denari. Rieccoci qui a cercare di decifrare cosa possiamo, cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare. Deborah, da dove puoi ripartire? Qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, sì, davvero. Grazie, allora, state scrivendo in tantissimi. Veramente, adesso andremo al tema delle auto perché pure ho visto che ha già centrato l'interesse di molti ascoltatori sugli spostamenti di emergenza. Ci sono per esempio delle persone, Michele da Verona ci scrive: i medicinali per gli animali in stalla si possono andare ad acquistare? Se questa è l'attività professionale di questa persona, chiaramente anche il giro dal veterinario è assolutamente considerata una circostanza che rende possibile appunto lo spostamento. C'è poi tutta una gamma di messaggi che ci stanno arrivando e che riguardano un tema che noi avevamo programmato di fare, lo faremo al più presto, con il mondo dei notai. Molte persone stanno sospendendo i rogiti per la finalizzazione di una compravendita. Siamo pronti a breve anche a fare una trasmissione su questo, quindi chiedo qualche giorno ancora di pazienza a queste persone, sperando che non debbano farlo tra oggi e domani, ma io credo che in questa circostanza straordinaria anche queste operazioni possano essere tranquillamente rinviate ancora per un po'. Poi ci sono anche degli ascoltatori pronti ad intervenire. Ripartiamo con Giovanni da Brescia. Mauro, se sei d'accordo. Sicuramente. Giovanni. Giovanni, benvenuto. Buongiorno. Ci chieda. Niente, io il cambio, la revisione in scaletta questo mese, mercoledì sono andato, la motorizzazione era chiusa, e ho anche il cronotachigrafo in scaletta, deve fare la revisione. Voglio sapere come mi devo comportare. Certo. Sentiamo premuti, abbiamo delle indicazioni, aspettiamo sempre di leggere il decreto legge in Gazzetta, naturalmente, per capire, peraltro, poi di decifrare tutto quanto. Però, c'è questo piccolo particolare, Mauro, ma come stai tu? Come sei un po' in ambascia, immagino che non hai ancora il nero su bianco. Ho un pochino di gastrite, ecco, se vuoi saperlo, mi innervosisce non poter leggere esattamente questo decreto che è molto molto importante, il decreto Cura Italia, però forse Premuti ci può aiutare ugualmente. Prego, Premuti. Beh, diciamo subito che qui il governo è intervenuto con i documenti anche in scadenza, come le patenti, come le carte d'identità. C'è un prolungamento di validità di questi documenti fino al 30 di agosto, quindi diciamo che la preoccupazione del nostro amico ascoltatore è una preoccupazione sicuramente motivata, perché riguarda la sicurezza di un mezzo, però il tempo è stato previsto, un allungamento dei tempi, quindi è chiaro, le motorizzazioni non stanno lavorando, però chi ci lavora con quei mezzi non è che li può fermare. Molto bene, allora volevo aggiungere una piccola chiosa su quanto è stato detto prima. L'interesse sul divieto degli spostamenti, voi pensate, è talmente alto che noi siamo in federazione con altre tre associazioni e abbiamo uno sportello digitale, quindi c'è AESI, AIACE e CODICI con noi. Voi pensate, sono arrivate oltre 600 richieste da parte dei cittadini per i chiarimenti. Fortunatamente oggi li avete dati. Beh, allora, ricordiamo sempre che i vari chiarimenti che diamo qui su Radio 24, in questa trasmissione come in tutte le altre, possono essere poi risentiti, riascoltati dal nostro sito www.radio24.it. Trovate tutte le puntate, quindi anche la mezz'ora ad esempio che precede il nostro programma a cura di Nicoletta Carbone con medici e specialisti che rispondono alle questioni sanitarie e mediche, sono molto importanti, sono a disposizione sul nostro sito. Deborah, io sono veramente quasi in imbarazzo. Mi chiedono, le revisioni auto sono state prorogate sì o no? Questa è una domanda che ci fa Andrea via SMS. Premuti? L'abbiamo detto proprio adesso, le revisioni chiaramente con le motorizzazioni chiuse non possono essere fatte, quindi vengono prolungate fino alla riapertura. La riapertura, il governo ha previsto per il 30 d'agosto i termini. Alleggerisco un attimo con Vallefuoco, voglio andare a comprare il Sole 24 Ore. Bene, grazie. È motivo, come dire, di una cosa assolutamente necessaria. Che dobbiamo rispondere a questo ascoltatore? Beh, recarsi in esercizi non chiusi dalla legislazione d'emergenza non è motivo di denuncia. Poi evidentemente il consiglio è sempre quello, cioè di evitare gli spostamenti, per cui quando si fa l'uscita per andare a fare la spesa, magari uno per famiglia e per andare in farmacia o per fare la corsetta, evidentemente si può anche andare a prendere il giornale. Questo certo. È così. Io volevo fare solo una precisazione, perché oggi è proprio oggi è uscita il nuovo modello di autocertificazione. Proprio bravo, perché ci sono degli ascoltatori che ci chiedono, peraltro, anche stando chiusi in casa da giorni, molti non possono neanche stamparlo, quindi come possono fare? Sì. A parte che adesso con il dispositivo telefonico riusciamo anche ad aprirlo, solo che si fa difficoltà a compilarlo. Come si fa? In realtà credo che le autorità di pubblica sicurezza che ti fermano debbano essere loro. La modalità prevista dalla circolare è proprio questa, le linee guida date dal Ministero dell'Interno sono proprio queste, cioè che se uno ce l'ha, per facilitare evidentemente può consegnargliela, e quindi si facilita un pochino il tutto, e non c'è neanche l'obbligo di dare copia del documento, proprio perché diciamo la legislazione d'emergenza in questo momento fa sì che questa cosa possa essere semplificata. Per quanto riguarda invece il nuovo modello, io rappresentavo che rispetto a quello precedente prevede la dichiarazione di non essere sottoposto a quarantena o di non aver contratto il virus, quindi di non essere positivo, motivo per cui poi scattano evidentemente in caso di dichiarazione mendaci altri tipi di reati. Quindi il consiglio che si deve dare è comunque, al di là di evitare le uscite, anche di evitare di dire il falso, perché mentre con l'articolo 650, cioè con la contravvenzione, attraverso un'opposizione e quindi magari attraverso anche una valutazione di questa opposizione con l'oblazione, si può arrivare a una definizione e un'estinzione del reato attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa. Invece, per quanto riguarda le false dichiarazioni, non c'è questa possibilità, e quindi poi si rischia veramente di aggravare la propria posizione. Certo, la questione dell'allevatore che ci ha chiesto prima Vallefuoco se può andare a comprare i medicinali per gli animali di stalla, qui è una causa diciamo di necessità che si può scrivere tranquillamente all'interno dell'autocertificazione, ovvero si può ovviamente, se si viene fermati, chiedere al personale, alle forze dell'ordine di compilarla, e quindi rispondo all'altra domanda, loro hanno copie di questa documentazione, di questa autocertificazione, di questa autodichiarazione, che verrà poi compilata lì davanti a loro e controfirmata anche davanti a loro. Questo evidentemente poi ha delle conseguenze, perché nel caso di falsità di queste dichiarazioni evidentemente ci possono essere contestati il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per cui si rischiano fino a una pena non inferiore a 3 mesi, per chiunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ed è punito, quindi è punito con la reclusione fino a 2 anni. E se si tratta di falsa attestazione in atti dello Stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 3 mesi, quindi abbiamo una reclusione fino a 2 anni. E ci sono anche 4,96, 4,95, infatti nelle statistiche riportate al Ministero dell'Interno, che fino al 15 marzo ci sono anche molti soggetti denunciati per 4,95 e 4,96, le false generalità sull'identità. Sì, ma uno dichiara di essere medico, ad esempio, e non lo è, può essere, certo, un caso. Certo, e anche sull'identità, qualità proprie e personali di altri, quindi magari dice no, sono Tizio, invece sono Caio. Insomma, ci sono c'è una diversa varietà. Io quello che consiglio, dice, se il danno è fatto, almeno evitare di aggravarlo, insomma. Sì. Allora ci fermiamo un istante, perché è il 45esimo e, come sai, cara Debora, le tradizioni vanno rispettate, è il momento del traffico. Due di denari. Le passeggiate all'aria aperta. Allora, prima dicono che si possono fare perché sono necessarie, logicamente, con tutte le modalità del caso, distanza, non raggruppando persone. Poi sono proibite, poi sono necessarie. Allora, si può uscire a passeggiare, anche andare in spiaggia, uno che abita al mare. Ci sono solo io sulla spiaggia, perché non posso stare sulla spiaggia? Non capisco questo, grazie. Non capisco perché la banca, tramite un fax, mandando tutti i dati, i documenti, la carta d'identità, tutti i password, non può mandarmi la carta di credito. Devo fare tutto tramite il web, che con il cellulare è complicatissimo. Vi ringrazio se potete mandare questo messaggio alle banche, grazie. Volevo capire, ma hanno sospeso anche i finanziamenti o solo le bollette e i mutui? In questo periodo l'inquilino ha l'obbligo di stare a casa. E se però l'inquilino non mi corrisponde l'affitto dovuto ed è quindi poi moroso, come mi devo comportare? Abito nella provincia di Grosseto, in un paesino dove c'è solo un negozio Coop che è carissimo. Volevo sapere, posso recarmi a 20 km circa per andare nel capoluogo di provincia, quindi Grosseto, per fare la spesa in un discount? Grazie. Allora, cara Debora, sai cosa? Che questa è una situazione, diciamo, imprevedibile, per usare un termine delicato. E quindi è difficile declinare tutte le infinite possibilità che si possono presentare. Questo, ad esempio, andare a fare la spesa in un altro comune. E... sì, vabbè, ma tu puoi posso dire una cosa? Prego, Mauro, scusami, Deborah. Perché questo messaggio, io capisco anche la signora che voglia fare il risparmio sulla spesa, ma perché devi fare 20 chilometri per risparmiare? Ma non li spendi tutti di strada, benzina? Io mi chiedo, anche in questo momento, c'è gente che per esempio fa la spesa online e... che si può farla, naturalmente, perché questa si può fare solo nelle grandi città, e carica anche la spesa per farsela consegnare, perché non è un servizio gratuito. Quindi in questo è un momento straordinario. Io mi chiedo, andarci a prendere un rischio per andare a risparmiare un po' sulla spesa? Io capisco la signora, non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma fai comunque 20 km di strada, quindi ti prendi un rischio di prenderti la malattia, spendi di più con l'auto per non andare a fare la spesa lì, perché quel negozio è un po' più caro, cioè comunque li spendi dall'altra. Non lo so se mi sono spiegata, ma mi sembrano a volte veramente delle richieste molto bizzarre in un frangente di tale drammaticità di cui non ci rendiamo conto. Forse che il nostro microcosmo, per un attimo, bisognerebbe metterlo da parte, come ha detto il sindaco che abbiamo fatto sentire proprio in apertura di trasmissione. Magari lo rimandiamo in chiusura. Allora io riepilogo e chiamo in soccorso, naturalmente, Fabrizio Premuti di Consumer.it e l'avvocato Valerio Vallefuoco di Consumer Italia, naturalmente, poi consumer.it è il sito. Riepilogo questo: il sito del Ministero dell'Interno sulla autodichiarazione, quella che, se non potete stamparvela a casa, comunque potete chiedere a chi vi ferma, alle forze dell'ordine che vi controllano, di produrla, perché loro ce l'hanno. e annovera, se non ho pescato quello non adeguato, quattro cause: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione, ecco, o residenza. Sono quattro casi, e questo è appunto, è chiaro che nelle situazioni di necessità, avvocato Vallefuoco, possiamo farci rientrare tante cose, però infatti verrebbe da dire con una enorme dose di buonsenso. Assolutamente. Una raccomandata, sì, in giacenza alla posta, per esempio, noi non sappiamo che cos'è, può essere un'informazione importante, così come può essere semplicemente un documento che ci è arrivato, non particolarmente rilevante, non lo potremo mai sapere, ma se in questo periodo non possiamo spostarci, quella raccomandata giace lì oltre il tempo limite. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda queste questioni, soprattutto connesse agli atti giudiziari, chiaramente sia il decreto precedente che questo successivo, che di cui auspichiamo la lettura quanto prima, per evitare di leggere i famosi comunicati legge, evidentemente prevede la sospensione anche dei termini per le impugnazioni, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista tranquillizzerei i radioascoltatori. Mi richiamo sempre al concetto che non è proibito, bisogna evitare, non è proibito andare nei punti vendita dei quali appunto è ancora autorizzata l'apertura. Quindi da questo punto di vista, se nel famoso consiglio, tanto una volta magari ogni giorno, una volta ogni due giorni si esce per nutrirsi o per prendere delle medicine eccetera eccetera, si può fare un giro che permette la definizione di tutte le attività necessarie. Ma addirittura, guardate, io facendo una ricerca archeologica ho trovato addirittura indicazioni del 1918 che parlavano, in caso di epidemia, di non uscire, di evitare eccetera eccetera. Quindi buon senso, ma anche normative abbastanza chiare e magari anche un po' flessibili, ecco, questo chiaramente questo è, certo, previsto. Deborah, c'è un caso che ci viene sottoposto da più di un ascoltatore, potremmo, sì, chiamarlo il dubbio della solidarietà, cioè qualcuno si incarica di fare la spesa magari per un vicino, una vicina, certo, che è in difficoltà, che è una persona anziana, una persona fragile, quindi meglio, diciamo, se limita ancora di più gli spostamenti rispetto a una persona di altra età. Però in questo caso è difficile forse giustificare, certo, la propria presenza all'aperto. Avvocato Vallefuoco. Sempre attraverso questa benedetta o maledetta certificazione, autodichiarazione, in cui si spiega il motivo e si dice, ad esempio, a me hanno chiesto tempo fa, recentemente, c'è un nonno che dice: ma io devo spostarmi da un comune a un altro per andare ad accudire il mio nipotino, perché la mamma e il, sì, papà ancora lavorano e sono obbligati ad andare al lavoro. La babysitter ovviamente in questo momento non viene, ha paura eccetera eccetera, dice: quindi io mi posso spostare? Beh, io gli ho detto: ma questo è un caso di necessità, il minore non sa, diciamo, badare a se stesso, lo scriva all'interno della autodichiarazione e immagino che, insomma, le forze dell'ordine capiscano pure quelli che sono questa è una necessità, come la persona anziana che non si può muovere. Io scrivo: sto andando a fare la spesa per la persona anziana che non si può muovere. Io non penso che un giudice possa considerare, magari, se c'è un troppo solerte, sempre che ci sia un troppo solerte accertatore, diciamo, di pubblica sicurezza, che mi faccia una sanzione. Io penso che loro invece lo facciano ai furbi o a quelli che invece sfruttano le maglie della normativa. Io volevo solo ricordare e precisare che il nuovo modulo invece contiene anche la dichiarazione di non essere positivi e di non essere sottoposti a quarantena. Quindi quando, sì, corretto. Corretto. Sì, quindi confermo. Quando scaricate il modello, diciamo, quello aggiornato ad oggi. L'RC Auto, Mauro, prego, sì, perché l'avevamo lanciato come tema, se possiamo farci dare da Fabrizio Premuti appunto un'indicazione sulla sospensione del pagamento del premio RC Auto, tema che c'era stato segnalato anche dagli amici di Facile.it, che ci avevano ricordato come questa possibilità di sospensione era stata riconosciuta solo agli abitanti della prima zona rossa ed era una norma contenuta nel decreto legge 9, quello del 2 marzo scorso. Le ultime indicazioni invece per mutui quali sono? Perché adesso non è che tutti, perché non ci spostiamo e perché magari viviamo questo frangente di difficoltà economica, possiamo ritenerci autorizzati a non pagare l'assicurazione, a meno che la nostra compagnia non stabilisca di sua iniziativa di concedere un rinvio magari di un mese, due mesi per tutti i sottoscrittori. Non so se questo possa essere possibile. Premuti. Adesso, al di là del fatto che molte compagnie si stanno attivando in mille modi, stanno cercando di intervenire su quella che è la crisi che stiamo vivendo, però rimane soltanto per quegli 11 comuni la sospensione della RC Auto, quindi non c'è una sospensione generalizzata per tutti, a meno che in un prossimo decreto non vedremo allargare questo tipo di beneficio. Poi teniamo pure in considerazione che la sospensione per quegli 11 comuni c'è, ma è valida per un certo periodo di tempo, dopodiché comunque andrà pagata l'RC Auto. Questo si tradurrà, visto anche lo scarso traffico che abbiamo in tutte le strade italiane, in un grande beneficio. Io mi auguro, da associazione dei consumatori, che le compagnie, se risparmieranno un miliardo e mezzo, ce lo faranno poi ritrovare nelle tariffe con una riduzione generalizzata, perché in questo caso ovviamente il rischio è molto minore. Ma ricordo, l'RC Auto non è sospesa, va pagata, le agenzie sono aperte, quelle che non sono aperte stanno lavorando comunque da remoto, e quindi ne usciremo tutti più digitalizzati da questa crisi, ma dobbiamo assolvere al pagamento se usiamo il veicolo, altrimenti siamo scoperti d'assicurazione. Colgo certo, anche l'occasione per correggere quello che ho detto prima. Attenzione che la prolungazione dei documenti di identità e della patente c'è fino ad agosto, ma prima ha parlato anche delle revisioni, questo non è avvenuto invece, perché adesso ho rivisto velocemente le disposizioni. Sulle revisioni non c'è stato il prolungamento della validità per la circolazione, ma è rimandato per una sospensione di circa 90 giorni ad un prossimo decreto. Ci stanno lavorando, quindi il nostro amico camionista che ci ha chiamato prima, attenzione, perché se senza revisione non può circolare, rischia tra l'altro che la propria compagnia d'assicurazione, in caso di incidente, non paghi ma faccia rivalsa a voi, o se paga fa rivalsa su di lui. Quindi vado a precisare una notizia che avevo dato quasi per scontata: non è così. La revisione, purtroppo, il prolungamento dei termini della revisione nel decreto non c'è, ci stanno lavorando, magari domani, dopodomani è rimandato un nuovo decreto con un prolungamento di 90 giorni. Ecco, quindi attenzione, attenzione, perché infatti su questo ci avevano interrogato, e sarebbe stata la mia domanda, ma oramai siamo veramente agli ultimi 20 secondi, ci hanno chiamato in diversi. Allora, la revisione, i termini di revisione non sono ancora stati spostati, è così, Premuti? Corretto? Assolutamente, ancora non sono stati ancora spostati. La previsione c'è, perché lo troviamo dappertutto, io lo davo quasi per scontato, ma in questo decreto non c'è. Benissimo. Quindi, cioè benissimo si fa per dire, benissimo, perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto. Grazie a Valerio Vallefuoco, grazie a Fabrizio Premuti. Cara Debora, domani che si fa? Domani facciamo ancora tutte le cose che riguardano il lavoro, peraltro tanti ci stanno scrivendo, il congedo parentale, tutte quelle cose lì. Noi non abbiamo neanche il decreto, ragazzi, stiamo dando delle risposte in libertà. Domani proveremo ad essere molto precisi. A domani.